quieto voy para Mayarín. No hay cariño que te tengo, yo no lo puedo negar. Si me sale la bebita, yo no la puedo evitar. Ah, gruppo ben nutrito, eh? Buenas dias, signori e signori. Ah, premetto subito che Messico e nuvole rispetto a noi è tutta un'altra storia. In Messico c'hanno canzoni, Campesinos, Acapulco, Pancho Villa, il Chiapas, ma soprattutto hanno i Walt Disney, quelli di importazione di Saludos Amigos. Noi in Bolivia, grattando, abbiamo Simón Bolívar e una capitale che vi sembrerà un insulto. La Paz. La Paz a me. La passa a me, ma come ti permetti, eh? Chiedo scusa, signori, ma non appena mi trovo di fronte a un gruppo di turisti promettenti come voi, beh, io mi sento in obbligo di fare il simpatico, di intrattenervi. Sia chiaro, però, voglio essere onesto con voi. Io sono un fotografo non professionista e proprio per questo sono una benedizione per i turisti a caccia di vero colore locale. Signori cari, potrete godere con me dell'inimitabile folklore boliviano. Bene, e adesso se vi mettete in posa possiamo iniziare. Se invece però sfortunatamente qualcuno si era messo in posa già da prima, ha fatto uno sforzo inutile perché non ho ancora scattato. Dai, dite la verità, sono irresistibile o no? E allora ditelo all'agenzia. Un secondo che prepariamo la macchina. Beh, che c'è? Cosa avete da guardare, eh? Ok, d'accordo, non sarà all'avanguardia, ha fatto parecchie battaglie, ma questa bambina si difende bene. È istantanea. Possedere qualcosa di istantaneo in Bolivia ha del miracoloso. Vedo che non mi seguite, eh? Qui da noi tutto parte con 2 anni di ritardo. Anche la nostra invidia per ciò che avete e che noi non abbiamo, la conoscete soltanto 2 anni dopo e alla fine non è più attuale per nessuno. Ah, ho capito. Non me lo dite. Voi siete europei del sud. E io ormai vi riconosco. Sì, perché il francese, l'italiano, anche lo spagnolo, vedendomi, ci hanno sempre la stessa domanda stampata in faccia. Ma che vuole sto cretino? Come faccio a capirlo? Forse perché sono meno cretino di quello che sembro. E poi perché sono mezzo europeo anch'io. Eric Blossel! Un nome importante. Un nome da ricco europeo. Chissà poi perché noi sudamericani spesso siamo ricchi di nomi. Daniel Esteban Oyocha de Goizueta. Lo direste un nobile, un grande di Spagna, un magnate dell'industria. E invece vende noccioline sul corso principale de Valle Grande. E ora ancora un attimo di pazienza per verificare l'attrezzatura. E intanto però vi faccio una confidenza. Quando il vostro capogruppo mi ha contattato, io mi sono scervellato una notte intera. Con quale fondale o scenario dare il senso della Bolivia? Palme? Già viste. Montagne? Scontate. E allora? E allora che cosa c'è di meglio di un intero teatro tutto nero, eh? Perché ci vuole troppa immaginazione per vederci dei colori veri in America Latina. E adesso veniamo a noi. Gentili signori, io vi do ufficialmente il mio bienvenido in Bolivia, a Valle Grande, che fra l'altro manco si è mai capito che cos'è che c'abbia di grande questa valle. E dicesi Valle Grande perché è una grande vallata piena di... Io ancora non l'ho capito per cosa diavolo sarà mai grande questa valle. Ah, certamente, Valle Grande è una grande valle piena di terra. Come avrete potuto notare passeggiando per la nostra promenade, tra le case di Valle Grande non c'è pavimentazione stradale, solo terra battuta. Cosa produca di buono questa terra, onestamente, io non lo so. Ma so per certo che produce tanta di quella miseria che ve ne potremmo regalare a vagonate. E allora, turisti, sostenete la Bolivia! Sostenete Eric Blossel! Per ogni foto, $10. $10. O 10 euro. Dai, per il souvenir! Forza, fatevi coraggio, cominciamo! Allora, per cominciare però voglio una bella signorita che abbia un sorriso ricco, pieno di sole. Lei. Lei, senza dubbio un'italiana, ci scommetto. Forza, si mette in posa e mi faccia un bel sorriso da dolce vita. Eccolo. Ah, perfetto, perfetto. Resti immobile. Ah. Allora, io mi rendo conto che ognuno fra di voi potrebbe pensare, ma come? Se me le faccio col cellulare, non pago niente e probabilmente verranno meglio. Vedrà, la agiti. È venuta benissimo. Per carità, però, mi paga alla fine, facciamo un conto unico per tutto il gruppo, ok? E vi faccio anche lo sconto, ci mancherebbe. Anche se le venisse lo schiribizzo di scappare senza pagarmi. Non potrebbe, perché io ho una memoria fotografica. Scherzo, ovviamente. Ah, adesso lei mi faccia la faccia del mucho macho mucho micio. Oh, eccolo qua. Ma no, può fare molto di meglio, provi lei, signore. Ah, perfetto, abbiamo trovato il nostro Banderas. Tenga il sorriso. Oh, fantastico. È vero, lo ammetto. Con il cellulare forse verrebbero meglio. Ma dove lo mettiamo? Lo spirito d'avventura. Eh? Ecco, tenga, mi paga all'uscita. Lo stesso discorso vale anche per lei. Allora, siate sinceri. Solo a sentir parlare di Bolivia, Ecuador, Colombia, ognuno di voi si sente tanto esploratore, tanto Vasco de Gama. E questo a noi fa piacere. Perché domani acquisterete un fascino senza paragoni raccontando di essere stati fotografati in Bolivia, a Valle Grande, da un tipico fotografo boliviano. Ma come me? La differenza è lampante, signori. Allora, chiariamocelo subito. Prima di tutto, voi siete turisti e fate roba da turisti in luoghi pittoreschi. Per essere pittoresco un posto deve essere pieno di gente pittoresca che fa cose pittoresche e, modestia a parte, con Eric Blossel voi avete avuto il massimo. Perché quando racconterete l'accaduto e pronuncerete il mio nome, se il vostro amico è uno che sa, se è uno che conosce la verità, voi acquisterete subito punti e considerazione. Nonostante il mio paese sia roba da poco, e la mia macchina sia roba da poco, e chi lo sa, forse neanch'io sono un granché in fondo, quello che però avete davanti ai vostri occhi è il testimone. Di che cosa, direte voi? Ebbene, se noi volessimo mettere i grandi miracoli dell'umanità in una specie di graduatoria, di classifica, Eric Blossel sarebbe a conoscenza del quarto e anche del terzo miracolo della storia in classifica. È così? Vi sembra troppo? Pensate che stia esagerando? Anzi, voglio anche specificarvi che per il miracolo più importante, quello che si trova al terzo posto, io sono addirittura l'unico al mondo che sa. Io non ho ancora capito bene da dove venga il vostro gruppo. Se siete di Roma, Parigi, Madrid, e in fondo non ha nemmeno tanto importanza, ma c'è un dato di fatto. Per 365 giorni all'anno, ogni anno, la storia si fa da voi, non certo a Valle Grande. E così sarebbe stato per sempre, nei secoli dei secoli. Ma nell'ottobre del 1967, cari miei, l'attenzione dell'universo era concentrata tutta su queste quattro case e su questi otto pollai. Valle Grande. Io la storia me la ricordo bene, perché c'ero. Già in estate si era sparsa la voce che lui fosse arrivato da noi, non certo per farsi una vacanza. Erano arrivati i Gringos. I Marines e la CIA addestravano i nostri soldati. E io di politica internazionale non è che mi sono mai veramente interessato. Però che a quello lì l'avevano scaricato qui giù, lo sapevo persino io. Il fatto è che i russi e gli americani volevano fare la pace e allora i russi ci avevano detto a Fidel: Fidel, se vogliamo essere ancora amici e tu vuoi continuare a mangiar bene, la devi piantare una buona volta di dare spago a quel rompiscatole del Che. Che poi diciamoci la verità. Il Che era rompiscatole forte. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Prima se ne andava in Congo a fare la guerra e poi, non contento, il Che si era messo in testa di fare la rivoluzione in tutta l'America Latina. Insomma, cacciato di qua, cacciato di là, senza appoggi e senza soldi, con pochissimi uomini, il Che era ormai ai piedi di Pilato. Allora, che dite? Adesso glielo facciamo un bel sorriso a Eric Blossel? Beh, ora è passato del tempo, però io ancora mi chiedo una cosa. Che diavolo ci faceva il Che a Valle Grande e in Bolivia? Come vi ho già accennato, per nostra abitudine, noi dormiamo molto e con i militari si dormiva ancora di più. È complicato fare una rivoluzione se dormi molto, no? Fu un tizio che conoscevo. Un contadino, un tale che si chiamava Honorato Rojas, a spifferare ai militari dove potevano beccare il Che. Ora siamo chiari, a Honorato non fregava un cazzo del Che, né dell'esercito, né della CIA. Però lo vide con i suoi uomini ed ebbe la pessima idea di raccontarlo alla moglie, che a sua volta lo raccontò a due pettegole come Ligia ed Elia, che erano ancora zitelle, e quelle ovviamente riempirono il paese di chiacchiere. La cosa si seppe e a furia di botte i soldati si fecero dire da Honorato il posto. Il Che si era nascosto in una quebrada, un canalone. Era la quebrada de Juro, a pochi chilometri dalla Higuera. Insomma, per farla breve, arrivarono le truppe del maggiore Ajorroa, lo trovarono, gli spararono alle gambe, si impacchettarono Guevara e se lo portarono nella scuola elementare della Higuera. Fine della storia. Signori, io ho finito. Facciamo così. Invece di 10 io vi faccio a cranio un forfè di 8 euro a pezzo, ok? Per foto, per il souvenir. Allora, potete pagare il pattuito all'uscita, come abbiamo stabilito, ok? Adios! E salutatemi il vostro paese! Lo so, vi capisco. Eh sì, anch'io al vostro posto starei morendo dalla curiosità per conoscere il terzo e il quarto miracolo della storia ai quali il sottoscritto ha assistito. Si può fare. Fanno altri 4 dollari a cranio, ok? Stavolta l'agenzia non c'entra, anzi, io direi acqua in bocca. È un segreto fra voi e me, ok? Allora, la storia è questa. Dovete sapere che Marco Ugarte è un mio amico. Alleva galline e di certo sa molte meno cose di voi e anche di me. Però fu proprio lui a dirmi che il Che, dopo la cattura, era ancora vivo. Il giorno dopo, il 9, incontrò al bar Victor Sanchez, che era maestro elementare, che quindi, difatti, che succedevano all'interno delle scuole, anche se quella stava in Leghera, ne capiva e mi fa: Eric, il Che è morto. Stava bene, ma ora lo porteranno indietro cadavere. E volete sapere che cos'era successo? Alle 13:10, proprio di quel 9 ottobre, era entrato nella scuola elementare della Leghera un sergente, un tale che si chiamava Mario Terán Salazar. Per la verità Terán era così nervoso che, si dice, lo buttarono dentro con la forza. Non voleva guardare in faccia il Che. Altri ancora dicono che sempre Terán, per darsi coraggio, si era inciucchito alla grande. Ernesto però aveva capito tutto e gli disse: «Io lo so che sei qui per uccidermi. Spara. Spara, codardo. Stai solo uccidendo un uomo». Terán prima sparò, alle gambe, perché volevano far vedere al mondo intero che l'avevano ammazzato in combattimento, e poi gli sparò al petto, proprio sotto al cuore, al costato. Si sappia che io contro la Higuera non ho niente. Mi sono anche simpatici, però fatemelo dire, voglio dire, in confronto a noi di Valle Grande, loro sono dei cabrones, caproni, molto, troppo provinciali. Erano già stati troppo fortunati perché il Che era stato assassinato proprio in una delle loro scuole, ma non sarebbe stato giusto se tutto il mondo avesse visto il comandante cadavere alla Higuera. E no, quello era un onore che spettava soltanto a noi. E difatti, il 10, eccoci lì, tutti nella piazza grande, a naso per aria ad aspettare. Aspettiamo, e d'improvviso sentiamo arrivare un elicottero. Rosario Ernesto Guevara era appeso proprio lì sotto. I nostri soldati non stavano più nella pelle, bisognava farlo vedere al mondo. Il Che era veramente morto. Nella lavanderia dell'ospedale dove lo portarono c'era una folla che nemmeno alla festa del santo patrono. Io ci provavo ad entrare, ma dentro erano in più di 200. Quando ci riuscii, notai all'inizio che l'avevano spogliato completamente, gli avevano abbassato persino le mutande. E qualcuno se ne accorse e, siccome non era una bella figura da mandare in mondovisione, gliele tirarono di nuovo su. Mi ricordo che nella stanza c'era un odore strano, dolce. Mi dissero che era formolo, serviva a rallentare la decomposizione. E poi sul tavolo di cemento finalmente lo vidi. All'inizio non lo guardai in faccia, un po' perché mi faceva impressione e un po' perché mia nonna mi raccontava sempre questa cosa. Mi diceva: non guardare negli occhi i morti ammazzati. Ci hanno ancora stampati dentro la faccia dell'assassino e tutta la paura e la rabbia che hanno sentito. Se li guarderai, ti ruberanno le notti e l'alma. Allora io mi concentrai sul petto e vidi due fori. Intanto sentivo il ronzio delle telecamere e qualcuno che piangeva. E poi un militare che, guardando nella cinepresa, disse: quest'uomo è stato il terrore del mondo intero, ma per noi ucciderlo è stato un gioco da ragazzi. Io pensai: bello, perché non la racconti giusta? E ringrazia la moglie di Onorato Rojas, che se non era per lei e per quelle due pettegole, col piffero che adesso facevi tanto il pavone. Alcuni soldati, come delle ballerine un po' maldestre, cominciarono a fare una passerella attorno al corpo del comandante. Avevano l'aria stordita di quelli che hanno pescato non si sa come una bella trota grossa e adesso si fanno la foto ricordo. E proprio in quel momento, flash! Una macchina fotografica aveva sparato un lampo. Il lampo si era acceso proprio vicino a me. Guardai alla mia destra. C'era Donna Petronilla e accanto a lei Don René Kadima Arnes, il fotografo ufficiale di Valle Grande, il mio rivale. Era stato proprio lui, Arnes, a scattare la foto non autorizzata. Sangre de Dios, abbaiò un soldato. Chi ha fatto la foto? Chi è stato il maldito? Signor, so io. Per favor, tengo miedo, rispose Ernest, che per la paura era diventato più cadavere del Che. In 5 secondi aprì la macchina, tolse la pellicola, la srotolò e la buttò a terra come se gli stesse bruciando fra le mani. Signori, io non so se sapete che cos'è l'attimo perfetto. È quel momento nel quale siete voi, ma non siete più voi. Cerco di spiegarmi meglio. In quell'attimo fate le cose più incredibili, come in una specie di trance, e poi dopo, quando ci ripensate, vi viene spontaneo di dire: oh, ma sono stato io? Ed è proprio a uno di quegli attimi perfetti che il vostro Eric Blossel deve tutta la sua fama. Io non so come né in quale istante, però mi ritrovai in piedi, sul tavolo, quello su cui era disteso il Che, proprio di fronte a lui, con la mia macchina fotografica fra le mani. Gli scattavo una foto dopo l'altra. Fra i militari nessuno disse niente. Anzi, quelli mi guardavano compiaciuti. Per passare alla storia, come per coricarsi con le belle donne, bisogna rischiare, e io l'avevo fatto. E fu allora che lo inquadrai bene. Aveva la barba e i capelli lunghi e gli occhi aperti. E la mia anima, mentre scattavo, rispondeva alla frase di mia nonna: No, non c'è paura e nemmeno rabbia. Avrà visto certamente il volto di Teheran. Avrà anche visto il bagliore della mitraglietta e la faccia della morte che si stendeva accanto a lui. Ma agli occhi di uno che è andato oltre. Non preoccuparti, nonna, non mi ruberà le notti, né l'anima. Lo sguardo era perso e dolcissimo e mi seguiva ovunque mi spostassi. Mi venne spontaneo una sorta di dialogo fra me e me, una specie di botta e risposta che mi fece seriamente pensare che stessi per diventare pazzo. Dov'è che l'ho già visto? C'ha una faccia conosciuta questo. Eric, per forza, è il CE. Sì, sì, ok. Io lo so che è il CE, ma non è solo perché è il CE. Ma che diavolo dici, Eric? È il comandante Guevara, lo conoscono tutti, Cristo santo! Ok, però ha una faccia di uno che ho visto milioni di volte. E sentiamo, dov'è che l'avresti già visto? Beh, io a Cuba non ci sono mai stato, figurati poi in Congo, manco a parlarne. E non dire cazzate, l'avrei visto in televisione o sui giornali, no? Sì, ok, può essere. Però no, l'ho visto da qualche altra parte. Però era un'atmosfera molto più... più familiare, ecco. Familiare? Che ne pensi, Eric? L'avrai già incontrato fra i maiali di Erwin Sandy o fra le galline di Marco Ugarte? Familiare, sì. Come se l'avessi avuto davanti agli occhi migliaia di volte. Oddio, dov'è che l'ho già visto, questo povero Cristo? Cristo? Cristo, ma certo! Ecco dov'è che l'avevo già visto. Ogni sera. Quando tornavo stanco dalla discarica, quando ripensavo a mio padre, morto che ero ancora un bambino, quando non sapevo più a quale santo votarmi e quando ogni giornata era come un mattone di una casa in disfacimento. Ogni sera io giravo lo sguardo sul tavolino vicino al mio letto e lo vedevo, lui era lì. Era da anni che mi guardava da quel quadretto. Il Cristo! Il CE era come Gesù! Il CE era Gesù! Il tradimento, il bacio di piombo di Teheran, la ferita al costato e quegli occhi. Troppe cose coincidevano. E dopo la nascita di Gesù e la sua risurrezione, al quarto posto, fra i miracoli della storia, c'è la passione del CE. Io non vorrei che voi vi faceste l'idea che sono una specie di santone o di prete, ok? Sono religioso per tradizione familiare, sicuramente come molti di voi. Però quando ero lì e scattavo... E mi venivano in testa questi strani pensieri. Anch'io mi dicevo che era assurdo, però dopo essere uscito dall'ospedale ero convinto che nei giorni seguenti qualcosa sarebbe successo. E allora drizzai le antenne e restai in attesa. I nostri militari erano molto credenti e allora si formarono due partiti su un dilemma. Il cadavere del CE, come souvenir per gli americani. Conveniva tagliare le mani o direttamente la testa? La questione venne risolta dal generale Saucedo, notoriamente molto cattolico, che disse: certo che questo fatto della testa non è molto cristiano, non va bene. Tagliargli le mani, quello va già meglio. Quei giorni, Vaia Grande pululava di giornalisti che dormivano tutti all'hotel Teresita, che era anche l'unico albergo della zona. Di conseguenza, oltre ai giornalisti c'erano anche i colonnelli, generali della giunta militare. E fu proprio uno dei corrispondenti della stampa a sentir dire a uno degli ufficiali che per evitare fanatismi e trafugamenti era stata triplicata la guardia davanti al corpo del CE. E così il giorno 11, 1967, il terzo giorno dalla morte, giornalisti, capi militari, il generale Anaja e addirittura il presidente Barrientos in persona si recarono all'ospedale per vedere il cadavere. E indovinate? Il cadavere non c'era più! Ora, sono sicuro che mi potrete dire che erano stati gli stessi militari a nasconderlo. E secondo voi Barrientos, che era il presidente della giunta militare, si scomodava dalla PAS per arrivare all'ospedale già sapendo che il corpo era stato nascosto? Ok, ammettiamo pure che sia andata così. Com'è possibile che da allora, da noi, a Valle Grande, il CE è santo? Com'è possibile che si celebrino messe per lui? Siamo tutti pazzi o visionari per voi, non è così? Dopo 30 anni, nel 1997, vennero autorizzati gli scavi nella zona all'aeroporto. Il sindaco non li voleva. Il CE era diventato l'unica attrattiva turistica di Valle Grande. Dopo alcuni mesi trovarono 7 corpi. Uno era senza mani e dissero che era il CE. Qui la gente non voleva che i resti fossero portati via. Ci furono proteste, lacrime. E io invece ridevo. Ridevo come si ride per le cose inutili. E risi tanto anche quando in TV fecero vedere Fidel, che a Cuba faceva un grande funerale a quelle quattro ossa che erano appartenute a chissà chi. Perché solo io conoscevo la verità. Il terzo miracolo in classifica. La mattina del terzo giorno, donna Petronilla, Arnès e persino quella pettegola di Ligia si erano recati al sepolcro del Che, alla Quebrada de Yuro. Era domenica e d'un tratto lungo la strada videro un tipo tale e quale al Che, ma non lo riconobbero. Il Che disse a donna Petronilla: «Donna, perché cerchi fra i morti colui che è vivo?» E scomparve. E allora i tre si spaventarono e cominciarono a correre. Arnès fu il primo ad arrivare al sepolcro e restò a bocca aperta. La grossa pietra che chiudeva il sepolcro era stata spostata e la tomba era aperta. Sulla pietra vidi un tizio che era tale quale ha onorato Rojas, ma c'aveva le ali! E allora Arnès cominciò a disperarsi pensando che il corpo del Che era stato rubato. Ma Rojas gli disse: «Non temere, uomo! Colui che cercate è risorto!» E allora arrivò una folla. E c'eravamo io e il maggiore Arroja e il centurione romano, Victor Sanchez, il ladrone buono e quello cattivo, Mario Teran e Giuda, Erwin Sandi e San Giacomo, il generale Candia e Ponzio Pilato, il presidente Barrientos e l'imperatore Tiberio, la Madonna, la Maddalena, la moglie di Rojas, tutti! Tutti. Il Che era risorto per tutti noi, poveri cristi. Per i buoni e per i cattivi. Disteso su quel tavolo, nudo, con gli occhi aperti, occhi di ragazzo, occhi di bambino che non può morire. Era proprio la sua fotografia.